Ad alta voce, Maria Paiato legge Il comunista di Guido Morselli. Prima puntata. Dibattito e riposo in Parlamento. Si stava discutendo un'interpellanza sulle condizioni cattive delle ferrovie dello Stato e l'aula, già con poca gente, si sguerniva, come capita quando si trattano argomenti tecnici. Tranne nel settore della sinistra, a cui apparteneva l'interpellante. Malgrado le voci alterne di questi e del ministro Angelini che gli rispondeva, l'ambiente era sonnacchioso. Infastidita e divertita perplessità accolse il magro spunto polemico introdotto dall'estrema. L'interruzione si levò da un banco dell'MSI. La voce, a inflessioni fittamente siciliane, aveva pretese d'ironia. «Tu critichi i treni in ritardo, lo capisci, onorevole Boatta, che la tua critica ci riporta ai tempi andati, quando c'era in Italia soprattutto chi faceva marciare i treni in orario?» «Ci è costato caro», fu l'ovvia risposta del compagno Boatta, ma l'altro incalzava. «Non i soli treni marciavano a quei tempi, purtroppo questa nostra Italia pusilla...» Qui Boatta perse la pazienza. «Impara l'italiano, fascista! In italiano non si dice Italia!» «Sì, da te imparerò che dici Italia con la G, buzzurro!» Qualcuno ridacchiò, mentre dal centro Dini, un lucchese, brontolava. «Beh, si sa da un pezzo che non sapete pronunciare nemmeno Italia!» Dal pulpito della presidenza, Leone si sporse per far notare, con intenzione lepida, che dalla filologia era il caso di tornare alla ferrovia. Il compagno Boatta tornò ad alzare la barbetta grigia e osservò che non c'era niente di borghese nel volere treni che rispettino l'orario, vagoni più moderni, ferrovieri vestiti di buon panno e non di saglia logora. «Non sono soltanto i borghesi a servirsi dei treni, sono soprattutto i lavoratori, come sono lavoratori gli uomini che li fanno andare. Con fatica e sacrificio, ve lo potrebbe dire Ferranini qui vicino a me, che è figlio di ferroviere morto per causa di servizio ed è stato ferroviere anche lui. Del resto», seguitò l'anziano Boatta nella ristabilita disattenzione dei colleghi, «oltre alle ferrovie abbiamo altri servizi pubblici disorganizzati e retrogradi. Vanno forse bene i telefoni così importanti per le attività produttive e di riflesso per i lavoratori? Le poste italiane sono le più lente d'Europa. Ho avuto stamattina una lettera a Montecitorio, mia nipote l'aveva impostata a Torino 2 giorni fa. Intervenne Leone. «Lei», gracidò, «ha chiesto di interpellare il ministro dei trasporti, non il ministro delle poste. E lasci la sua corrispondenza personale, non ci interessa». Il compagno Ferranini ascoltava appena e sorrideva, in uno stato di torpore piacevole. Quando il compagno Boatta aveva fatto il suo nome, per un attimo aveva avuto paura, incongruamente, di essere chiamato a interloquire, lui che in 5 mesi di legislatura non si era trovato a prendere la parola una volta. Era stato aggregato a una commissione che si aduna di rado, una commissione che era la più pacifica e inconcludente di tutte, in cui il suo silenzio passava inosservato non meno che in aula. Anche al partito non gli chiedevano molto, forse perché a Roma, alla sede centrale dove non aveva mai messo piede prima della sua recente elezione, nessuno lo conosceva. Ferranini Walter, da Reggio Emilia, primo a non misurare come in lui la Kiev d'Italia fosse ben rappresentata. Difetti e virtù. Genuino elemento della base, Abituato al contatto politico vivo e immediato, umano, della base, Ferranini non era privo di ambizioni personali, tutt'altro, ma le aveva sempre ristrette al suo ambiente, soddisfatte lì. Accettare la candidatura gli diede qualche rimorso non superficiale, il timore di tradire la sua vera chiamata, un disagio da cui cominciava appena a guarire. Ai compagni di Reggio, che lo avevano incluso nella lista, diceva: «Dunque mi mandate in pensione?» E per un verso si era sentito realmente messo da parte. Non si illudeva, negli intervalli che andava a passare a casa, di riavere il rapporto che si era interrotto fra lui e la sua gente, le sue responsabilità di prima. A Roma, e lo aveva previsto, nessuno sbocco gli si apriva nelle gerarchie dell'apparato, per le quali, con onestà, riconosceva di non avere preparazione né attitudini. I 12 anni di lavoro che si lasciava alle spalle non gli sarebbero serviti. La sua esperienza organizzativa era troppo da specialista per adoperarla in una sfera tanto più larga, staccata dalle situazioni e dagli uomini che gli erano familiari. Per un altro verso, a Roma non ci si era trovato male, sicché aveva finito in pratica con lo stabilircisi. Quando tornava a Reggio o al suo paese, Vimondino, 20 chilometri da Reggio, ci si fermava una giornata al massimo. E la routine parlamentare, la funzione gregaria che è tipica dei deputati in un grande partito, «qui facciamo i coristi a bocca chiusa», aveva scritto al suo fedele Oscar Fubini, non gli dispiacevano. Studiare era sempre stata una sua passione e quasi sempre gliene era mancato il tempo. Adesso, con diverse ore disponibili ogni giorno, se ne cavava la voglia. La sua conoscenza del marxismo, sebbene di prima mano, era disordinata, non organica. Si mise con tenacia e scrupolo a perfezionarla. Gli pareva una maniera di resistere contro l'inerzia e il conformismo, la reazione di un buon socialista. I pochi che cercavano di stanarlo dalla sua camera di Via del Leonetto, un alloggio non accogliente e lui lo era anche meno, lo sorprendevano a prendere appunti sui classici, concentrato e arruffato, in maniche di camicia, come uno studente in vista degli esami. Il termos del caffè sul tavolino e un ultimo tocco al quadretto di genere, una gabbia con gli uccelli al davanzale della finestra. Stava impigrendosi. Gli dava noia doversi cavare di lì per andare a Civitavecchia o a Rieti per il comizio del sabato o della domenica. Lui che a Reggio usava girare la provincia tutta la settimana, tirando il collo alle macchine, e rientrava la sera a Roco e con la schiena rotta. Una permanente fortuna era la sua di pagare moderata attenzione al suo privato io. Esami interiori, colloqui con se stesso, non erano né frequenti né lunghi. Concluse che a 44 anni finiti la stanchezza gli dava fuori. Si era sbattuto alla sua parte. Aveva cominciato da ragazzo a sfacchinare, a penare. Un po' di vita buona non l'aveva fatta mai. Poteva anche sentire il bisogno di mettersi giù. Un uomo da buttare via, no. Anzi, dopo che stava a Roma le cose andavano meglio. Ma qualche disturbino rimaneva, quei dolorini alla radice del collo, segni di ipertensione e un po' d'affanno, un po' di aritmia, che un collega deputato, il compagno Amoruso, internista, aveva qualificato a lume di naso, senza poterlo visitare perché lui non voleva, sindrome da affaticamento, in quadro di lieve cardiopatia funzionale parzialmente soggettiva. Il partito, facendolo venire a riposare a Roma, gli dava una prova della sua provvida presenza nella vita del singolo. Lui ne avrebbe usato per rimettersi ben bene in sesto. Il nuovo appello all'azione poteva giungere da un momento all'altro. Nel frattempo, stare seduto lì, in quell'aula, con i suoi compagni e i suoi capi, non era inutile. Anche lì si serviva. Non c'era mica niente di male. Semmai, pensò, senza unzione non era l'individuo, un privilegio che non meritavo. Boatta aveva terminato. Si era dichiarato insoddisfatto della risposta di Angelini, in realtà poco soddisfacente. E altre interrogazioni subentravano, ora da parte democristiana, concordate col governo. Una finzione senza interesse. Ferranini si stese più comodamente nel suo banco. Rinunciò a sfogliare i giornali che aveva con sé. Due file più sotto, Olinto Maccagni stava sbrigando il suo corriere, scriveva indisturbato. Sulla sua tavoletta una piccola pila di libri e Ferranini riuscì a leggere il titolo del primo. Montaigne e sé. Fissò a lungo, con rispetto, ciò che poteva vedere della persona del suo leader. La tempia folta, scura ancora. Le spalle e l'avambraccio fermi, tranquilli, da cui spirava una serenità, una forza che gli sembrarono auguste, in cui si mescolavano l'azione e il pensiero. Trasalì. Maccagni si era interrotto. Aveva fatto con la testa un mezzo giro. Gli gettava, attraverso le lenti, uno sguardo, ma non lo riconobbe. Aveva fama di non essere fisionomista e con lui non aveva avuto che contatti brevissimi. Non importa. Ferranini gustava il piacere composito della subordinazione e della fiducia, contento di appartenere in qualche modo a quell'uomo. Fra i giornali ritrovò un telegramma che gli avevano consegnato in principio di seduta. Veniva da Reggio, da casa sua, in sostanza, l'unica ma abbondante famiglia che avesse. Annunciava la visita di due amici, dirigenti della CAP di Guastalla, cooperativa agricola produttori. E dovette sorridere. I due avevano firmato Bignami, Amos e Vittorio, direttori del primo Colcoz d'Italia. Vuoi scommettere che sono già arrivati e sono qua dentro? Alzò gli occhi ed erano là, difatti, proprio loro. Unici spettatori di quella scialba assemblea che a braccia levate lo salutavano, i due cugini cappisti col garofano rosso all'occhiello dalla tribuna del pubblico. Rispose con un cenno che raccomandava la calma. Erano capaci di chiamare forte, di farsi notare e la cosa non sarebbe stata gradita a Maccagni. Aspettò leggicchiando i giornali che lui si muovesse. Maccagni continuava a scrivere e rimase al suo posto un'altra mezz'ora sino alle 8 e intanto i due lassù si vedevano parlottare fra loro e fare segni indicandosi i vari settori della camera. Lo abbracciarono all'uscita e poco dopo, esaminatolo alla luce di una vetrina per la strada, Amos Bignami lo rassicurò. «Non sei cambiato?» Ferranini fraintese. «E dovrei essere cambiato? Montecitorio, forse? Roma? Ma no, cosa dici? Sei sempre magro, sì, sempre con l'aria di un ragazzo, di un poeta, il nostro Ferranini. Beh, siamo qui per te, sai, per parlarti del tuo Vimondino, il tuo paesello mezzo allagato dal Po. Sempre sott'acqua, casa nostra, a novembre. Ma possibile che non venite a chiedere aiuti contro la Federconsorzi? Dunque, sai che stiamo combattendo a spada tratta. Como los moros, Kruger contro Lopez, ti ricordi in Spagna? Così! E non se ne può fare a meno, credi a noi, ci attaccano. Novità in federazione, ma quelle le conosci. Con l'interagraria i rapporti come vanno? Beh, non tanto lisci, nemmeno lì, adesso ti diremo. Li scortò alla sua trattoria in una traversa di via dei Coronari. Un locale dove non ci bazzicavano parlamentari e gli piaceva per questo. I Bignami, Amos più di Vittorio, riferirono diffusamente, nel tono deferente e cordiale di subordinati pieni di iniziativa. Da Ferranini non avevano mai preso che le direttive politiche. Poi passarono a raccontare del paese. Non ci vivevano, ma ci avevano tutti e due un po' di terra. Conoscevano ogni cosa e persona. Parlarono in abbondanza e non mangiarono altrettanto. Ferranini mangiò volentieri, al solito, curvo sul piatto, la sinistra a premersi il tovagliolo sul petto, concentrato pur ascoltando e facendo qualche domanda. Frugale nel senso di uno che ama la roba semplice ma gustava il mangiare in silenzio se poteva, con l'aspetto e non era solo un'apparenza di chi mangiando non pensa ad altro. Nuccia, o Annuccia, la sua amica, trovava che senza ombra di sensualità era un mangiatore serio, profondo insomma, anche in quello e scrupoloso. E lui le faceva notare che veniva da una famiglia che aveva patito la pellagra, la fame cioè, sino ben dentro il secolo XX. Bignami Vittorio, dalle guance vinose sebbene fosse astemio, era stato il primo aiutante di Ferranini dal 1946, quando cominciò il suo lavoro nelle cooperative, e voleva sapere se a Roma continuasse a occuparsene, se gli avevano dato incarichi e quali. Si meravigliò della risposta negativa. «Beh, ma davvero, Ferranini, non te ne occupi? Tu che sei uno dei più grandi cooperativisti di oggi!» «Sì, come la cappa di Guastalla è un Colcoz», fece Ferranini. Aveva finito di mangiare, ripigliava a parlare. «Non ti apprezzano, forse? E il migliore non ti conosce? Ma se eravate seduti vicino!» «Siamo 140 solo alla camera, ma poi anche voi lo dovreste sapere che cos'è la base, che cos'è il centro. Sono due mondi, come dire l'acqua e l'aria, e uno che vive nell'uno non è fatto per vivere nell'altro, gli mancano gli organi». «Non è giusto, è giustissimo. Io sono qui per rappresentarla alla base, non per mandarla avanti dall'alto. Sono funzioni differenti, ci vogliono capacità differenti. Io vado al partito in media un paio di volte al mese e ancora non ho imparato come sono divisi gli uffici. Dovete pensare che il partito qui è una struttura enorme, complessa. Ma parliamo delle cose che conosciamo, gente mia. Vimondino, terra pulita, terra grassa, ma smorta, eh? Oh, sta buono, Ferranein, smorta, smorta». Paese di proprietari, e nemmeno piccoli. Molti di 20, 25 biolche e più. Una biolca è sui 3.000 metri quadri. La possidenza contadina a Vimondino risaliva ai primi del secolo, e cioè al tramonto del signore feudale, certo conte Giarretani, di cui i vimondinesi erano mezzadri. Verso il 1902, ingolosito dalla fortuna fatta a Modena da un suo ex dipendente con una manifattura di carni in scatola, il Giarretani aperse un salumificio a Reggio e prese a fare feroce concorrenza a quello, tra l'altro imitandogli il marchio di fabbrica. Quello studiò la sua vendetta. Attese che il prepotente si ingrandisse e impegnasse il suo capitale, poi in poco tempo, calando i prezzi di settimana in settimana, lo ridusse a dovergli cedere la fabbrica e infine, per interposta persona, la terra. Il Giarretani, se conservò a stento la villa dove abitava Vimondino, patì lo scorno di vedersi circondato dai suoi vecchi mezzadri diventati pari suoi, perché il concorrente vittorioso, non avendo interesse a tenere i terreni, li rivendette loro uno dopo l'altro, a condizioni molto vantaggiose. E così avvenne una volta che da una guerra fra capitalisti nascesse la fortuna dei lavoratori. Bignami Amos, più anziano del cugino e di Ferranini, ricordava qualche cosa di quel tempo lontano. «I nostri di Vimondino, arpinati, li trattava da spazzapollai. So che un giorno disse preciso così: "Siete bravi a rubar galline!" Fra i pochi, quasi tutti non nati nel paese, che tenevano l'orecchio aperto alla buona politica, era Mirko Ferranini, il padre di Walter, venuto da Cesena a Reggio nel 10, a lavorare da fochista nella ferrovia Reggio Guastalla. Da ragazzo era stato iscritto a una cellula anarchica, filiazione di quella Lega Bakunin dei giovani romagnoli, che diede al movimento alcuni dei suoi uomini meno scalmanati e più coerenti, come il Capriani. Ma anche Mirko, sposatosi nel 16 dopo la promozione a macchinista, si ammansì. «Un macchinista di ferrovia è un congegno di precisione», andava ripetendo, e si intendeva un uomo d'ordine. I fatti del dopoguerra, le leghe rosse, la mobilitazione delle forze popolari emiliane contro la reazione insorgente non ebbero quasi eco a Vimondino. e nemmeno nel cuore di Ferranini Mirko. Solo nella primavera del 21, quando in America furono incriminati con minaccia non vana, come poi apparve, di sedia elettrica Sacco e Vanzetti, lui capì che si sentiva rivivere. Erano martiri della sua fede antica e, soffrendo di lontano con loro, a Mirko gli parve infine di riscattarsi. Scrisse al più vecchio dei due, Bartolomeo Vanzetti, e dal carcere, mesi dopo, gli arrivò la risposta. Tornò a scrivere e Vanzetti rispose ancora e nell'ultima di quelle lettere diceva «Sì, gloria all'anarchia, ma adesso dobbiamo entrare nei ranghi. Non è giusto disperdere le nostre forze e sprecare le nostre speranze. La rivoluzione che ha trionfato sullo zar è degna di raccogliere i figli di Bakunin». Il ferroviere, che aveva decorato di ritagli di giornale con le fotografie dei due martiri la cucina e la camera di casa sua, non comprese il consiglio del povero Vanzetti o non credette di doverne parlare. Ma il seme avrebbe dato il frutto in suo figlio. Walter Ferranini, uno dei pochi comunisti italiani d'oggi ad avere conosciuto le opere di Malatesta e degli altri maestri dell'anarchia, fu socialista anche prima di essere uomo. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.